e racconterò un'inchiesta che sto conducendo dall'inizio dell'anno in tutta la Pianura Padana sulla crisi agricola, sul perché l'agricoltura, in quello che era il cuore produttivo del paese, no? Il cuore agricolo, è entrato in crisi. Ormai da diversi anni c'è un calo di produttività, una trasformazione nei campi, c'è anche un assalto ai campi per fare cose diverse dall'agricoltura, quindi la logistica o addirittura i grandi campi di pannelli fotovoltaici. E quindi ho girato, grazie ad una fondazione che si chiama Bert Foundation, insieme al fotografo Michele Lapini, abbiamo girato un po' tutta la pianura. Abbiamo visto che le problematiche sono diverse, in particolare c'è una problematica molto importante, soprattutto sull'ortofrutta, che è il rapporto un po' perverso e comunque sleale che esiste tra i produttori agricoli e coloro i quali assicurano la distribuzione del cibo, cioè i supermercati. Tutti gli agricoltori ci hanno raccontato che sostanzialmente per la frutta e la verdura i supermercati mettono in campo dei rapporti, dei contratti capestro, in cui sostanzialmente richiedono non solo dei prezzi molto bassi, ma anche e soprattutto dei ristorni. Cioè loro ti dicono: se tu vuoi vendere la frutta a me e io poi la metto in vendita, poi a fine anno mi devi ridare il 10 o il 15% di quello che io ti ho pagato. E questo, capisci che il 10-15% è un punto molto, è una percentuale molto rilevante, diciamo, in fatturati che già sono miliardari, ma poi soprattutto i fatturati dei produttori agricoli sono in crisi, sono in sofferenza. Quindi se tu levi anche il 10-15%, sostanzialmente tieni strozzata un'azienda. Devo dire, la cosa che mi ha colpito, io ho visto anche questi contratti in cui nero su bianco ci sono scritte queste cose: il ristorno, la promozione imposta, i listini che vengono poi rinegoziati. La cosa che mi ha molto colpito in questa inchiesta, che appunto abbiamo portato avanti insieme a Michele per vari mesi, parlando con decine di operatori del settore, è che tutti loro erano molto desiderosi di parlarne, ma assolutamente in forma anonima. Erano assolutamente terrorizzati che il loro nome o la loro azienda uscisse, perché dicevano: se noi, ancorché noi siamo vessati da questa, dalle pratiche messe in campo dalla grande distribuzione, se noi parliamo loro ci tagliano fuori e poi noi effettivamente abbiamo difficoltà a trovare un altro canale di vendita. Quindi è un sistema in cui c'è una forte omertà, anche perché si ha veramente paura, cioè paura di denunciare apertamente. Io ho letto gli articoli che hai scritto su Internazionale, citi addirittura un produttore di pesche che ha avuto il coraggio di denunciare la Coop, ha vinto, e però poi non è stato più chiamato da nessun'altra grande catena. Quello è un po' il caso che viene raccontato da tutti, no? È un caso di un commerciante di pere, che tra l'altro si chiama Peron. Quindi nome. Fortunato Peron, diversi anni fa, ancora prima che fosse approvata la direttiva europea contro le pratiche sleali, insomma, quindi alla metà degli anni 10, diciamo una decina di anni fa, Fortunato Peron, avendo avuto una ridiscussione contrattuale imposta dalla Coop, cioè un abbassamento delle quantità e anche dei prezzi, lui ha denunciato la Coop antitrust, ha portato avanti la pratica, ha anche vinto, ha avuto un rimborso, ma da allora non ha più lavorato, cioè ha proprio cambiato mestiere. E quello ti dico, tutti gli operatori ti dicono, io dico: ma perché non denunci? Perché ci sono alcune pratiche che sono, tra virgolette, legali, no? Contrattualizzate, poi ce ne sono alcune che invece sono illegali, che vengono messe in campo. E quando io chiedevo ai vari agricoltori o responsabili di cooperative o delle organizzazioni dei produttori: ma perché non denunciate? La risposta che mi è arrivata più di una volta è stata: ma ti ricordi Peron? L'Europa nel 2019 ha varato una direttiva contro le pratiche commerciali in agricoltura, una direttiva recepita dall'Italia nel 2021 con la legge 198, dove ha aperto un organo di vigilanza, il fantomatico ICQRF, che però tu hai definito, parole testuali, come un pannicello caldo su un malato grave, nel senso che non è certo in grado di controbattere un mercato così enorme gestito dalla grande distribuzione organizzata. La direttiva contro le pratiche commerciali sleali è un passo avanti, perché mette nero su bianco, definisce alcune pratiche che sono vietate e altre che sono semplicemente tollerate se accettate dalle due parti. L'Italia ha recepito questa pratica nel 2021, addirittura anche allargandola rispetto, diciamo, alla normativa europea, rafforzandola, vietando le aste al doppio ribasso, vietando la vendita sotto costo. Il problema è che è l'attuazione di questa direttiva e questa definizione del pannicello caldo sul moribondo è una definizione, in verità, non mia, ma di un avvocato civilista che si occupa di pratiche commerciali sleali e che vive a Cesena, che si chiama Gualtiero Rovida. E lui dice: ma se noi guardiamo le sanzioni che sono state comminate dall'ICQRF da quando è nato. Sono delle sanzioni di 600.000 euro in totale per delle pratiche che invece producono un mancato guadagno stimato sugli agricoltori per centinaia di milioni di euro. Allora per questo è un pannicello caldo, cioè non riesce effettivamente ad aggredire il fenomeno nella sua dimensione, nella sua rilevanza. Non è efficace perché probabilmente comunque non va alla radice dei problemi, agisce solo su segnalazione e quindi di fatto non riesce veramente a riequilibrare i rapporti di filiera, perché poi il punto è questo, che i rapporti di filiera sono squilibrati perché noi abbiamo dei produttori che sono immensamente più deboli, più frammentati anche sicuramente, dei colossi della grande distribuzione, che sono obbligati ad andare dalla grande distribuzione perché quello è un canale di vendita per loro diventato imprescindibile.